Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e allora di nuovo con voi Sebastiano Barisoni. I temi di questa giornata economico-finanziaria: tiene sempre banco il cosiddetto piano Geithner, ossia il piano per acquistare i prodotti tossici elaborato dal segretario del Tesoro americano. Oggi è intervenuto di nuovo Geithner, ma anche di nuovo Barack Obama e il numero uno della Federal Reserve, Ben Bernanke. Di questo parleremo, anche se oggi la giornata sui mercati è abbastanza altalenante. Dopo un avvio positivo, le borse europee hanno annullato i guadagni della mattinata, adesso viaggiano miste, nel senso che Francoforte guadagna lo 0,2, Parigi lo perde uno 0,2, Londra è tra le peggiori, meno 1,5%, Milano è invariata sui due indici. Detto ciò, anche oggi in evidenza i bancari, perché il Banco Popolare guadagna l'11,7% e va a 2,93 euro. Giorno importante oggi per il Banco Popolare, ne parleremo più avanti. Mediolanum guadagna il 10%, anche Mediolanum ha presentato i conti, Bulgari il 9,28 e poi invece, dopo questi tre titoli che hanno rialzi vicini al 10%, andiamo su titoli su rialzi decisamente inferiori: Mondadori più 3,2, Impregilo più 2,6, Snam più 2,5, Ansaldo STS 1,5% come Mediobanca e Alleanza anch'essa 1,5% come le generali di rialzo. Sul fronte opposto, Fondiaria perde quasi il 5, Pirelli il 3,2, Tenaris perde il 3,1, Unipol il 2,80, come Buzzi Unicem, Saipem meno 2,7, A2A meno 2,6, Campari meno 2,4, Prismia meno 2,2, Lottomatica meno 1,6%. L'euro sempre forte, ma non come ieri, è 1,35,4 nei confronti del dollaro e a 92 pence nei confronti della sterlina. Come va l'America? Adesso è negativa, meno 1%, dopo un avvio più incerto, il Nasdaq perde quasi il 2%. Di cosa parleremo quindi? Beh, il piano americano, le critiche che sono arrivate a questo piano di Geithner e critiche che sono arrivate, diciamo, dalla parte più democratica degli economisti, democratica inteso come partito, chiaramente, degli economisti, quindi non sono tanto i repubblicani quanto alcuni esponenti di spicco dell'intelligenza democratica. Mi riferisco al premio Nobel Krugman, ma non solo, e dicono: attenzione, questo piano in realtà non serve, fa un regalo alle banche, fa un regalo ai privati che entreranno in questo fondo perché pagheranno e rischieranno molto poco, con la potenzialità di guadagnare invece molto. Meglio sarebbe stato, questo è il ragionamento di Krugman, comprarsi direttamente le banche, non continuare a buttare soldi per comprare i loro prodotti tossici. Ho sintetizzato in maniera un po' brutale. Dopodiché parleremo anche della vicenda di Tallise per la sentenza e parleremo infine alle 18.10, quando inizieranno le votazioni alla Camera, iniziano alle 18, del federalismo fiscale, perché, insomma, salvo sorprese assolutamente non previste, passerà alla Camera la legge che istituirà il federalismo fiscale. Già è passata al Senato, abbiamo dedicato un approfondimento proprio al suo tempo, vi torneremo ricordando quali sono le caratteristiche principali, ma anche i tempi, chiamiamoli così, di implementazione della riforma del fisco in senso federale. 349-238-6666 per i vostri sms. Su Patticchiari, le banche che sono uscite, già vi hanno raccontato oggi i nostri GR. Andiamo allora rapidamente sulle altre notizie di questa giornata economico-finanziaria. Giustamente alcuni di voi mi dicono: ma il petrolio non l'avete dato? Un po' di pazienza, ecco che arriva anche il petrolio, ha aperto a $53 il barile e non è un caso che, come le borse hanno archiviato le prime due settimane non così nere, anzi in netto recupero sugli indici, anche il petrolio è tornato a salire, è invariato l'Euribor all'1,56%. Ricordo però che ieri la WTO ossia l'Organizzazione Mondiale del Commercio, ha detto che quest'anno il commercio mondiale calerà del 9%, ossia il dato peggiore dalla Seconda Guerra Mondiale. E non deve stupire che il 2009, lo abbiamo detto già altre volte, sarà un anno brutto, pessimo, vedremo, per l'economia, ma potrebbe essere l'anno, soprattutto dalla seconda metà in poi, in cui ripartono i mercati, ossia ripartono i gruppi bancari. Anche in questi giorni abbiamo avuto nuove notizie di gruppi bancari che hanno avuto andamenti migliori di ogni attesa a inizio anno. Va bene, nel frattempo la IATA, ossia l'associazione che riunisce tutte le principali compagnie aeree al mondo, ha detto che il 2009 si chiuderà per le associate con una perdita complessiva di 4 miliardi e 700 milioni di dollari, molto peggio rispetto alle previsioni precedenti che stimavano il calo, il rosso per le compagnie aeree complessivamente a 2 miliardi e mezzo, quasi il doppio rispetto alle stime precedenti. Ancora, la Cina lancia l'idea di una valuta da usare negli scambi internazionali al posto del dollaro americano, un'idea che ogni tanto ciclicamente ritorna. Alcuni anni fa proposero l'euro come vera valuta a livello mondiale, addirittura c'è il premio Nobel Mandel, se non ricordo male, che propone la creazione di una valuta unica su base mondiale. Oggi la proposta, così, che sembra più una provocazione anche intellettuale, è arrivata dal governatore della banca centrale cinese Zhu Xiaochan. Per restare in Asia, intanto il governo sudcoreano ha annunciato un piano straordinario da 21 miliardi di dollari per fare in modo che la Corea del Sud eviti quella che altrimenti sarebbe la sua prima recessione economica da 11 anni a questa parte. Ma nel frattempo dalla Russia non arrivano buone notizie. Io vi ricordo che poi a inizio aprile vi sarà un'importantissima missione in Russia, il presidente del Consiglio Berlusconi, la presidente di Confindustria Marcegaglia, numerosi banchieri, imprenditori, ministri. Noi la seguiremo con la nostra inviata Valentina Furlanetto. Dicevo, oggi Alexei Kudrin, ministro delle finanze e vice premier, ha detto: attenzione, ci attendiamo in Russia una seconda ondata di problemi nel settore finanziario. In Europa Jean-Claude Trichet, numero uno della Banca Centrale Europea, lo ha detto da Città del Messico, ma si riferiva all'Europa, ha detto che i tassi di interesse possono scendere ancora nell'area euro. Ma dicevo di alcune banche che sono partite meglio. Abbiamo visto la settimana scorsa Citigroup e Barclays avere dati nei primi due mesi migliori delle attese. Ebbene, abbiamo visto oggi Deutsche Bank, banca molto colpita dalle svalutazioni per via degli investimenti, partire bene nel 2009. Lo ha detto lo stesso amministratore delegato della banca tedesca, Josef Ackermann, ha detto: il 2009 si è aperto con un buon inizio. Commento analogo anche per Credit Suisse, secondo gruppo bancario svizzero, che, stando proprio a un comunicato di oggi, ha iniziato il 2009 in maniera molto forte. Staremo a vedere, ma insomma sono notizie per ora confortanti. Il Fondo Monetario è tornato sulle polemiche, poi la correzione di ieri di Almunia, l'Italia a rischio. Ha detto, e lo ha fatto per voce del capo del Dipartimento Affari Fiscali, Carlo Cottarelli, ha detto: le misure prese dall'Italia, le politiche attivate sono adeguate, tenendo conto dell'elevato debito pubblico dell'Italia, e non ci sono problemi di collasso per il debito pubblico italiano. La Banca d'Italia intanto oggi ha fatto sapere che a breve fornirà una revisione di tutte le stime economiche per il 2009 del nostro paese, una revisione sicuramente al ribasso. Le ultime stime della Banca d'Italia prevedevano e prevedono un PIL italiano a un meno 2% nel 2009. Evidentemente il dato era ancora in difetto per un eccesso di ottimismo. La Banca d'Italia ha annunciato che rivedrà al ribasso queste stime. Di crisi oggi ha parlato anche il Presidente del Consiglio Berlusconi durante il viaggio che vi abbiamo raccontato del Frecciarossa da Milano a Roma. Poco prima di salire sul treno, così al microfono del nostro Paolo Piacenza, sulla necessità di uscire dal virus americano. Bisognerebbe avere tutti la voglia di reagire, di di avere molta fiducia, di impegnarsi, di lavorare magari anche di più, reagendo a questa influenza americana, così l'ho definita, questo virus che viene dall'America e che ha colpito un corpo sano, perché noi abbiamo famiglie italiane, sono famiglie di risparmiatori, l'83% ha la proprietà della casa, adesso chi abita in una casa monofamiliare o bifamiliare potrà anche espanderla, mettendo in movimento soldi che sono fermi in banca. E poi abbiamo appunto il sistema delle banche che è solido e straordinari piccoli e medi imprenditori, quindi credo che abbiamo tutte le condizioni per poter guardare al futuro con fiducia e uscire da questa crisi. E il Presidente del Consiglio ha anche detto che, a giudicare la reazione delle borse, il piano Gaetan sembra una buona iniziativa. Poi ha aggiunto all'arrivo a Roma, a quel punto, che il testo che circola sul piano casa non è quello a cui io avevo già lavorato. Così appunto il Presidente del Consiglio, che ha iniziato oggi una sessione sul tema per varare un DDL che affiancherà il decreto, che poi sarà quello definitivo. Ho sentito, ha continuato Berlusconi, cose che non erano nelle idee iniziali e che non saranno nel testo, cioè quello che riguarda gli immobili urbani. Che sia un decreto o un disegno di legge, si fermerà e si limiterà alle case mono, i bifamiliari e alle costruzioni da rifare. Del federalismo fiscale volete già sapere, attenzione, alle 18, voto finale alla Camera, dalle 18, sul disegno di legge sul federalismo fiscale, e sarà necessaria comunque una terza lettura al Senato, essendo stato modificato a Montecitorio, ma il passaggio dovrebbe arrivare senza ulteriori cambiamenti. E poi il governo avrà 2 anni per emanare tutti i decreti attuativi e fissare la data per l'effettiva entrata in vigore della riforma, che presumibilmente non avverrà prima di 5 anni. Allora, le ricette contro la crisi, come annunciato, iniziamo con il primo tema, ossia il piano Geithner. Chiedo una cortesia a chi scrive gli sms: per favore inviatene uno solo, altrimenti se continuate a inviare gli stessi messaggi svariate volte occupate, diciamo, lo spazio che è anche di altri ascoltatori nello schermo. Nota di servizio chiusa, partiamo con il primo tema, il piano Geithner. Piano che arriverà nel corso del tempo a costare o a valere 1.000 miliardi di dollari, il cui obiettivo è quello di pulire i bilanci delle banche, allentando le pressioni ancora esistenti sulle banche americane e soprattutto far tornare a girare il credito, cioè far tornare a lavorare la macchina del credito come avveniva prima dello scoppio di questa crisi. Che cosa prevede il piano? Prevede che quello che si chiama Public Private Investment Program utilizzerà fra i 75 e i 100 miliardi di dollari del TARP, del mega piano per anticrisi varato dall'amministrazione Obama, un piano che complessivamente ne vale 700. Ecco, di questi 700, circa 75 o 100 verranno utilizzati per dare al governo un potere di acquisto da 500 miliardi di dollari, e appunto potrebbe arrivare fino a 1.000 miliardi, quindi raddoppiare nel corso del tempo. Che cosa prevede? Ripulire le banche dai titoli tossici, come li chiamano tutti, ecco perché si può arrivare fino a 1.000 miliardi. Governo e privati cercheranno di fare ripartire l'economia e nel caso specifico le banche. In che modo? Il prezzo dei valori acquistati, titoli e prestiti immobiliari, sarà fissato dai privati per ridurre la possibilità che il governo paghi troppo gli asset tossici. E però le critiche non sono mancate, adesso vi arriveremo. Vorrei farvi sentire prima l'intervento di ieri di Barack Obama nell'illustrare, prima illustrazione del piano del segretario del tesoro Timothy Geithner. Ma saluto nel frattempo anche l'economista Luigi Zingales, editorialista del Sole 24 Ore, docente di imprese e finanza all'Università di Chicago, dove è in collegamento con noi. Buonasera professore. Buonasera. Allora, sentiamo Barack Obama e poi anche un passaggio dell'intervento di Geithner e di Bernanke di oggi. Poi vorrei capire perché, insomma, lei oggi su Sole 24 Ore ha mostrato un certo scetticismo, parla in sostanza di un regalo di Obama a Wall Street. Non è l'unico, lei è in buona compagnia, citavo prima il caso di Paul Krugman, ma anche di altri Nobel all'economia e altri opinionisti, lo stesso New York Times molto scettico sul piano Obama. Sentiamo Obama ieri. Secretary Geithner announced the latest element in this multi-pronged approach. Il segretario al Tesoro Geithner ha annunciato l'ultimo elemento del piano. Si tratta in particolare di un meccanismo che permette alle banche di togliere dai loro bilanci alcuni degli asset tossici e metterli in vendita sul mercato, ma in modo che i contribuenti non siano obbligati a comprarli a un prezzo qualsiasi. In particolare è prevista una partnership pubblico-privata che renderà possibile per chi partecipa alle attività del mercato dare un prezzo a questi asset, in modo che i contribuenti condividano i rialzi come i ribassi. Pensiamo che questo piano sia un ulteriore e fondamentale tassello per sbloccare il flusso del credito. Sappiamo che non succederà dall'oggi al domani. Il sistema finanziario è ancora fragile, ma ci stiamo muovendo nella giusta direzione. Siamo fiduciosi nel fatto che, in coordinamento con la Fed e altre importanti istituzioni, saremo in grado non solo di sbloccare il mercato del credito, ma saremo anche nella posizione di ridisegnare le autorità di regolamentazione necessarie per prevenire che un tipo di crisi sistemica come questa si ripeta. La buona notizia è che abbiamo uno strumento in più per arrivare al rilancio dell'economia. Ma la strada è ancora molto lunga, c'è ancora tanto da fare, ma credo che la squadra che abbiamo messo insieme sarà in grado di raggiungere l'obiettivo. Così Barack Obama ieri, allora sentiamo Tim Geithner oggi che ha detto le nostre azioni avranno successo, metteremo dei limiti per non trovarci più in una situazione come questa alle di regolamentazione alle società più grandi e comunque serve anche una riforma del sistema dei compensi. So che molta della rabbia della gente è focalizzata su Mr. Liddy, l'amministratore delegato di AIG, ma non credo che sia giusto perché non è stato lui a creare questa confusione. Ha solo risposto alla richiesta del governo di lavorare per ristrutturare la società e per ridare indietro i finanziamenti forniti dai contribuenti. Mr. Liddy ha ereditato una montagna di problemi, inclusa la vicenda dei bonus, che così tanta rabbia ha sollevato. Le migliaia di dipendenti di AIG stanno lavorando duramente per riportare la società ad operare nel business delle assicurazioni. Lavorano duramente per ridurre i rischi e l'esposizione della società. Ed è importante il nostro sostegno, che significa anche protezione dei contribuenti. Oltre al problema dei compensi dei manager, questa crisi finanziaria ha evidenziato delle falle nel sistema di regolamentazione del nostro sistema finanziario. La mancanza di un sistema di regole appropriato è stato alla base dell'attuale crisi finanziaria e continua a limitare la nostra capacità di fronteggiare crisi future. Il nostro paese sta attraversando un periodo straordinario e il governo è stato costretto a prendere misure fuori dall'ordinario. Faremo il necessario per stabilizzare il sistema finanziario e con l'aiuto del Congresso mettere a punto gli strumenti di cui abbiamo bisogno per rendere la nostra economia e il nostro sistema più resistenti e più stabili. Dobbiamo lavorare assieme per creare un contesto in cui i risparmiatori si sentano sicuri e in cui possano avere fiducia nelle regole alla base delle loro decisioni in campo finanziario. Allora, professor Zingales, poi ascolteremo anche Ben Bernanke, il numero uno della Federal Reserve, sui compensi, sui bonus. Lei oggi ha scritto su Sole 24 Ore di una specie di caccia all'untore. Vi arriveremo. Vorrei concentrarmi adesso sul piano. Insomma, visto che se i titoli tossici fossero stati comprati a prezzo di mercato, le banche sarebbero fallite perché non valgono più nulla di fatto. Se li avessero comprati a valore, diciamo, di bilancio, avrebbero regalato i contribuenti americani una marea di miliardi alle banche. Si è deciso di trovare una via di mezzo, ossia una triangolazione tra Stato e capitale privato e quindi Federal Reserve ma anche Tesoro. Perché lei dice che si tratta di un enorme regalo a Wall Street? Beh, innanzitutto è una cura quasi omeopatica in cui si cerca di curare il problema raddoppiando i sintomi della crisi. Cioè, la crisi è dovuta a cosa? Eccessivo indebitamento, eccessiva assunzione di rischio. Questo sistema permette ai privati di indebitarsi a dei livelli molto elevati, scaricando rischio sullo Stato e dando a loro invece una possibilità di guadagno molto elevata. In sostanza, secondo dei semplici calcoli, la posizione che il privato prende, che paga $7 su 100 di investimento, vale a valore di mercato 22. Quindi per ogni dollaro che uno investe, il riceve $2 in addizione di regalo immediatamente. Perché Gardner e Obama hanno fatto questa scelta? Hanno fatto questa scelta sperando che la competizione tra gli hedge fund managers faccia sì che parte di questo regalo venga trasferito alle banche sovrappagando i titoli delle banche. È un meccanismo molto indiretto e che ha una grossa fiducia nella capacità di competizione di questi managers. Ora, in un momento di crisi come questo, dove il capitale privato è scarso, dubito che ci saranno così tanti hedge fund managers che entrano e competono tra di loro. Quindi l'ipotesi più probabile è che colludano, comprino o cerchino di comprare i titoli tossici a prezzi bassi, catturando l'intero valore di questo sussidio. Quindi è praticamente un Full Employment Act per Wall Street e per la hedge fund industry. Chiaro il suo ragionamento. Lei dice praticamente i soldi chiesti ai privati dagli hedge fund sono pochi, appunto con $7, uno in realtà con $7 per ogni 100 di investimento i privati ottengono 50% di qualsiasi guadagno senza rischiare di perdere nulla di più dei $7. E a prezzo di mercato la posizione invece sarebbe di $21, non di 7, quindi con $7 tu compri per 21. Ma quello che vorrei capire è se il ragionamento di Barack Obama e di Gartner è così delicato, e cioè sperano che la competizione tra hedge fund per accaparrarsi questi titoli tossici porti a aumentare il valore di questi titoli e quindi ad aumentare il valore per le banche che li hanno, ed è tutto da dimostrare, perché secondo lei si è scelta questa strada e non la strada invocata da Krugman e altri, nazionalizzare le banche invece che comprare le parti tossiche delle banche, dei prodotti bancari? Il motivo è molto semplice, perché esiste una pressione della lobby finanziaria molto forte che vede come fumo negli occhi non solo la nazionalizzazione, ma anche un piano alternativo che io ho sempre proposto fin dall'inizio, cioè di cambiare la legge di bancarotta, quella che qui si chiama Chapter 11, capitolo 11, e creare una forma di riorganizzazione specifica per le imprese finanziarie. Le imprese finanziarie sono, non tutte, ma molte, sono insolventi, e quindi bisogna risolvere questa insolvenza non dandogli dei soldi, ma ristrutturandole. D'altra parte, non vedo perché trattare General Motors in maniera diversa da Citigroup. Sì, questo è vero. L'unica spiegazione è che Citigroup è tra i maggiori contribuenti alle campagne elettorali sia dei democratici che dei repubblicani, mentre General Motors no. Allora, lei citava il caso di General Motors, lo ricordo a tutti, il governo americano prima di prestare la prima tranche da 17 o da memoria miliardi, 14, con un'aggiunta miliardi di dollari a General Motors, Chrysler e Ford. Ford poi non ha fatto richiesta, hanno fatto richiesta solo GM e Chrysler, ma comunque ha detto: se volete questi soldi dovete ristrutturare la vostra industria, quindi fare auto ecologiche, a un altro modello produttivo. Giustamente, prima di dare i soldi ai contribuenti ci si assicura che fra un anno non si sia a capo 12. Questa cosa, lei dice, non viene chiesta alle banche, anzi le si fa un favore, perché questi vengono comprati, questi titoli tossici, si fa un favore agli hedge fund, perché mettendo poco hanno guadagni per molto, non rischiano nulla, perché poi comunque in grosso del rischio se lo carica il contribuente americano. E nel pezzo di oggi su Sole 24 Ore lei aggiunge: si fa anche un grosso regalo alle agenzie di rating, che non è che abbiano brillato in questi mesi, visto che si sono accorte della crisi ed è solo a buoi scappati dalla stalla, perché le agenzie di rating avranno un bel guadagno, intorno il miliardo di dollari dalla valutazione di questi nuovi prodotti. Domanda, io continuo a non capire, cioè lei dice è tutto un problema di lobby, ma è possibile che Obama, che allo stesso tempo sta facendo una campagna da alcuni anche giudicata pericolosamente populista, ha cavalcato l'onda contro i manager di AIG, ma non solo, di Merrill Lynch, abbiamo visto di tutto in questi giorni, poi faccia un piano a favore delle lobby di Wall Street? Assolutamente sì, come spiegavo nel mio articolo su Sole 24 Ore, è una tipica alleanza nei momenti di crisi tra la piazza e gli insiders. E gli insiders usano la piazza per chiedere mancanza di trasparenza e nella mancanza di trasparenza riescono a approfittare e a guadagnare di più. Il motivo per cui il piano Geithner è stato strutturato in questa maniera è perché Geithner non ha coraggio di ritornare al Congresso chiedendo dei soldi o chiedendo il potere di ristrutturare le banche. E quindi fa un secondo piano Paulson, perché questo non è altro che il primo piano Paulson, semplicemente nascosto, perché invece di dare i soldi direttamente, i soldi vengono dati indirettamente e non si richiede l'autorizzazione al Congresso. Cioè il contribuente americano può rischiare di perdere centinaia di miliardi di dollari senza avere mai avuto un voto del Congresso. Sì, molto mi sembra, da come lei la descrive, una strada molto rischiosa per Barack Obama, perché già il piano Paulson che lei ricordava, cioè il primo piano, c'era ancora il presidente Bush, è stato un buco nell'acqua, non è servito a nulla, hanno speso 600-750 alla fine miliardi di dollari per non modificare nulla, perché il mercato tanto non si è mosso, hanno cercato di comprare questi titoli ma non è servito a nulla, la borsa ha continuato a sprofondare e la liquidità a non girare. Lei dice con questo piano non li si danno direttamente alle banche, ma li si dà a questo, diciamo, consorzio con gli hedge fund dentro che comprano, ma di fatto è la stessa cosa. ...17:40 minuti... Allora, professor Zingale, se abbiamo capito il suo scetticismo, lei dice di fatto questo piano di Geithner, di Barack Obama, è identico al piano Paulson, va a fare un regalo alle banche, in questo caso il regalo è più che altro agli hedge fund che partecipano alla creazione di questo soggetto che va a comprare gli asset tossici bancari, costerà i contribuenti e, ultimo aspetto, non è detto che funzioni. Lei che, oltre che dare dei regali anche alle agenzie di rating, lei che probabilità dà al piano di funzionare? Perché poi alla fine, gira e rigira, sempre qui andiamo a parare. Ma guardi, secondo me il piano ha scarse probabilità di funzionare. Spero di sbagliarmi, è una delle poche situazioni in cui spero di avere torto, però secondo me non funzionerà e il problema si riporrà in maniera uguale tra qualche mese. Anch'io spero che lei si sbagli, lo dico con massimo rispetto, perché sarebbe il secondo piano da 500 più 700 di prima, saremmo già a 1300 miliardi di dollari, una cifra che uno non riesce nemmeno a immaginare, buttati dentro per nulla, altro che sanità americana e altri temi. L'ultima domanda che ho per lei riguarda i bonus dei manager, insomma. Io trovo che ci sia anche un elemento indecente in chi, ho capito che il Congresso l'ha votato, ma in chi continua a distribuirsi bonus pur essendo di fatto fallito e in vita solo per l'aiuto dei contribuenti americani, mi riferisco a AIG ma non solo. Sentiamo cosa ne pensa il numero uno della Federal Reserve, Ben Bernanke. La Federal Reserve, in stretto contatto con il Tesoro, decise lo scorso 16 settembre di sostenere AIG, il cui fallimento avrebbe posto dei rischi inaccettabili per il sistema finanziario globale e la nostra economia. Nel migliore dei casi, il fallimento di AIG avrebbe intensificato la già grave crisi finanziaria. Il fallimento di AIG avrebbe portato, presumibilmente, ad una crisi come quella degli anni 30, con implicazioni catastrofiche. La decisione della Fed di supportare il Tesoro a settembre con un finanziamento ad AIG da 85 miliardi di dollari prendeva le mosse dai rischi che un eventuale collasso della società avrebbe potuto avere. In quel momento nessuna agenzia federale avrebbe potuto fornire capitale per stabilizzare AIG e nessuna entità federale o statale, al di là della Corte per la bancarotta, avrebbe potuto chiudere a piccoli passi AIG. Sfortunatamente, le leggi sulla bancarotta federale non proteggono sufficientemente il forte interesse pubblico nell'assicurare un'ordinata soluzione di istituzioni finanziarie non bancarie, neanche quando un eventuale fallimento porrebbe rischi sistemici. È per questo che spingo il Congresso a sviluppare nuove procedure di emergenza. Per ciò che riguarda i bonus ai dipendenti AIG, credo sia stato molto inappropriato distribuirli a chi ha contribuito al collasso della società. Ho chiesto che i pagamenti venissero bloccati, ma erano stati previsti da contratti già firmati. Ho anche considerato la possibilità di un'azione legale per fermare i pagamenti, ma non si è proceduto. Il caso AIG offre due lezioni per le discussioni sulla riforma regolatoria. La prima, la vicenda evidenzia l'urgenza per nuove procedure per società finanziarie e non bancarie sistematicamente importanti. Se un'agenzia avesse avuto tali strumenti a settembre, avrebbe potuto commissariare AIG e chiuderla lentamente, imponendo tagli appropriati alle controparti e ai creditori. Secondo, il caso evidenzia la necessità di una forte ed efficiente supervisione di tutte le società finanziarie importanti. Una supervisione più efficace avrebbe consentito di identificare e bloccare le straordinarie prese di rischio della divisione prodotti finanziari di AIG. Vabbè, c'è una parte anche su quello che si sarebbe dovuto fare, speriamo si faccia d'ora in avanti. Professor Zingales, per concludere, c'è la caccia all'untore e quindi manager e banchieri diventano capro espiatorio, oppure, voglio dire, non voglio ripetere la lista delle decine di milioni di dollari che hanno incassato in questi anni per far di fatto fallire le principali banche americane, né i casi record dei vertici che erano di Bear Stearns a giocare a bridge, quell'altro era... erano in 40 le Barbados, e quello che si è rifatto a fare lo studio pagando $1.200.000, l'aereo di Citigroup che non potevano rinunciare. Ma insomma, c'era da aspettarselo oppure è un capro espiatorio? No, ci sono stati enormi eccessi che vanno ridimensionati, e secondo me c'è un problema di corporate governance molto serio che fa sì che le persone vengano pagate non solo quando riescono, ma anche quando falliscono, che è un disastro non solo dal punto di vista morale ma anche dal punto di vista economico. Quindi sicuramente questo problema va risolto. Da qui a dire che bisogna mettere dei limiti a tutte le remunerazioni indiscriminatamente, questo è sbagliato. È come se noi dicessimo c'è stato un errore nel pagare un giocatore di calcio, per cui come risultato noi mettiamo un limite massimo a quanto vengono pagati i giocatori di calcio. Il risultato è che i migliori giocatori di calcio andranno a giocare da qualche altra parte. E se noi lo mettiamo negli Stati Uniti, significa che tutti andranno a lavorare in Inghilterra, e se noi lo mettiamo in Italia, ormai vanno già a lavorare in Inghilterra comunque, quindi forse l'effetto è molto limitato, però avrà degli effetti comunque devastanti. Sì, io trovo che alla fin fine l'errore più grosso sia stato non solo guadagnare così tanto e guadagnare anche quando non c'erano i risultati, ma legare i bonus a dei rischi assurdi, perché poi questo andrà tutto rivisto. Comunque, io ringrazio Luigi Zingales, vedo che alcuni sono d'accordo, alcuni ascoltatori sono d'accordo con lui, altri invece dicono no, vabbè, siete sempre pronti a criticare. Staremo a vedere, ripeto, io mi auguro che Luigi Zingales si sbagli, che questo piano Geithner metta la parola fine alla parte più nera di questa crisi finanziaria, e che sia uno strumento efficace, che abbiano ragione Barack Obama e Tim Geithner nell'immaginare che gli hedge fund, quindi i fondi che amano la speculazione e il rischio, facciano una gara o competano per comprarsi questi titoli tossici facendone salire il prezzo. Me lo auguro veramente, perché sennò avremmo sprecato la seconda occasione in 4 mesi. Adesso è informazione per chi è in viaggio. Grazie a Luigi Zingales in collegamento con noi da Chicago. Allora, parliamo di borsa. Vedo alcuni messaggi particolarmente aggressivi, avvallate quello che dicono i vostri ospiti, ma insomma non mi sembra che nessuno in questo momento abbia la capacità di dire se il piano Geithner funzionerà. La borsa ieri ci ha creduto, oggi più tiepida, nel senso che Wall Street perde lo 0,4%. Abbiamo non solo non abbiamo avallato, abbiamo anche detto che ci auguriamo che Zingales abbia torto, lui, Krugman, i principali editorialisti del New York Times, insomma tutta quella schiera di economisti che dice a Barack Obama e a Geithner: stai sbagliando, perché in questo modo stai scaricando sul contribuente e non c'è nessuna certezza dell'efficacia. E più di augurarmi che Zingales si sbagli, non so cosa dire obiettivamente a un ospite, ma ripeto, in questo programma non vendiamo certezze, ascoltiamo opinioni e analisi che possono essere più o meno corrette, ma hanno sempre dignità di patria. I mercati, e allora come sempre Radio Colle sulle 24 ore, Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Giornata piattina oggi in Europa, Parigi più 0,1%, Francoforte più 0,2%, Londra meno 1%, la peggiore, Milano più 0,2%, S&P più 0,1%. Allora, piattina in generale, ma con numerosi conti oggi approvati. Partiamo da quelli del Banco Popolare e poi di Mediolanum, visto che il Banco Popolare ha fatto più 13% e Mediolanum più 10%. Esattamente, oggi la giornata è stata soprattutto in attesa o a commento dei conti di bilancio approvati da molte società. Per quanto riguarda il Banco Popolare, è stata la migliore del listino tra le blue chip, con un rialzo del 13,63% a un soffio da quota 3 euro. Il mercato scommette su buoni risultati di bilancio del 2008, i conti sono approvati, saranno approvati oggi dai consigli, ma saranno comunicati soltanto domattina a mercato chiuso. Nonostante quindi alcune indiscrezioni che rilanciavano l'ipotesi, tra l'altro già ammessa dal management, di un possibile azzeramento del dividendo, gli investitori oggi sembrano quindi scommettere su risultati che potrebbero risultare migliori delle attese. Quanto a Mediolanum invece, i conti sono stati già comunicati a mercato aperto e il mercato ha premiato questi risultati spingendo il titolo in rialzo del 10% a 2,64 euro. Il gruppo ha chiuso il 2008 con un utile in calo a 131 milioni, ma l'amministratore delegato Ennio Doris, in un'intervista alla nostra agenzia, si è detto fiducioso del fatto che gli utili potranno esplodere, se non nel 2009 e nel 2010, grazie alla ripresa borsistica su cui Doris scommette nei prossimi mesi. E se i conti hanno portato bene al Banco Popolare e a Mediolanum, è andata in maniera diametralmente opposta per Fondiaria SAI. Il titolo ha perso il 5,5%, l'utile scende da 620 a 90 milioni di euro e la cedola, ossia il dividendo, è proposta a 70 centesimi di euro. Paolo. Sì, esattamente, Fondiaria SAI ha perso terreno dopo l'uscita dei risultati, ha chiuso la seduta in coda all'S&P MIB. È proprio la forte discesa dell'utile che ricordavi tu che ha deluso il mercato, e inoltre il management della società si è detto prudente sulle prospettive per il 2009, limitandosi a dire di aspettarsi dei buoni margini reddituali nel ramo danni, ma esprimendo a livello generale soltanto prudenza, visto la crisi in corso e i suoi effetti sul business della società. Questa incertezza ovviamente, come sempre, non piace agli investitori, che oggi hanno punito il titolo spingendolo in ribasso del 5,53%. Due note, non voglio mettere in difficoltà, ma insomma, Richard Ginori più 44%, Cell Therapeutics più 33% e Bialetti più 30%. Qualche... Bene anche Tiscali più 20, ci mancherebbe, ma c'è qualche notizia particolare su questi tre titoli? Beh, per quanto riguarda Richard Ginori, ricordiamo che ieri è stata prima seduta di contrattazione dopo quasi 2 anni e mezzo, e insomma sembra che gli investitori abbiano accolto positivamente il ritorno in contrattazione dei titoli della storica società di ceramiche. Anche oggi il rialzo è stato importante, anche se inferiore al più 61 registrato ieri. E per quanto riguarda Cell Therapeutics, non c'è nulla di particolare da segnalare. La società ieri è stata sospesa in attesa di una nota arrivata in serata, che però non ha, secondo gli operatori, non ha dato particolari motivi di investimento, ma spesso commentiamo le oscillazioni fortissime di questa società, che già l'anno scorso aveva perso il 99% del suo valore, e oggi c'è stato un recupero del 33%, così come quello di Bialetti, un po' inferiore, che ha chiuso a più 30,23%. Abbiamo dimenticato di dare il dividendo di Mediolanum, avete ragione, 15 centesimi di euro per azione. Richard Ginori, abbiamo detto, Socoterm anch'essa bene oggi, poi un po' ritracciato secondo quanto scrive oggi sulle 24 ore, è in cerca, in trattativa per un accordo per negoziare il debito. Due battute, se ho ancora pochissimi secondi. Banco Popolare di Milano, nel senso che il titolo si era mosso bene oggi lungo tutta la giornata, poi ha chiuso con più 1,7, Snam più 4, Mondadori più 5,4, Impregilo più 2,7, Mediobanca più 2,3, Alleanza più 2,12, Ansald STS più 1,7, Parmalat più 1,6, Generali 1,5% di rialzo e Autogrill pure. Tra chi ha perso, oltre a Fondiaria, anche Buzzi Unice meno 3, come Campari, Unipo meno 2,7, Tenaris meno 2,6, Prismian meno 2,5, Pirelli meno 2,30, A2A meno 2,2, Saipem meno 1,90%. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 Ore. Dopo le informazioni del nostro GR parleremo della sentenza su Italdis e parleremo anche chiaramente del federalismo fiscale, visto che con il voto di oggi alla Camera ci sarà bisogno di un passaggio al Senato, ma insomma non di fatto è legge. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, vicenda Italdis a cavallo quindi tra finanza, ma in questo caso soprattutto cronaca giudiziaria. Oggi sono arrivate i rinvii a giudizio e allora vogliamo ripercorrere questa vicenda. È una vicenda che ha pesato moltissimo sul Banco Popolare, allora Banca Popolare di Verona Novara. Che cosa è successo? Italdis era un istituto specializzato nel leasing, aveva un capitale di 180 milioni di euro, è arrivata ad avere 8 miliardi di debiti verso le banche. La settimana scorsa, e questa è la vicenda più finanziaria, sia il Banco Popolare assieme alla Popolare Emilia Romagna, alla Popolare di Milano e a quella di Sondrio hanno varato un piano di salvataggio, ossia viene lanciata un'offerta pubblica da 1,5 euro per azione su Italdis. Però questo è il fronte più finanziario. Il fronte giudiziario significa che nel maggio 2007 Italdis fa sapere che ha aperte su strumenti derivati tossici per 400 milioni. Venduti come strumenti contro il rischio erano in realtà contratti capestro che avevano fortissimi effetti leva e rischi sia per i clienti che per la banca emittente. Questi prodotti sono stati rifilati a 2600 clienti in tutto, ma concentrati per l'80% del valore su una decina di clienti. Il 7 giugno si dimette Massimo Faenza, amministratore delegato, già indagato per il crack del gruppo Coppola. L'8 giugno le perdite salgono a 610 milioni, il 29 giugno del 2007 il buco sale a 730 milioni e iniziano a indagare la Consob, la Banca d'Italia e la Procura di Milano, che apre un'inchiesta. È anche obbligata Italdis a aumentare il capitale di 700 milioni. Si arriva così al 23 gennaio 2008, quando vengono arrestati a Milano con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata all'appropriazione indebita l'ex amministratore delegato Faenza, l'ex responsabile dell'ufficio Financial Banking Massimo Sarandrea e ancora l'ex vice direttore generale business Roberto Fabbri e due consulenti intermediari Claudio Umberto Calza e Luca De Filippo. Infine arrestato con l'accusa di riciclaggio Manfred Hirschmann, direttore generale di due società austriache dove sarebbero finiti 11 milioni di euro sottratti a Italdis. Questo il punto fino agli arresti. Vediamo oggi di capire che cosa ha deciso il GUP di Milano Fabrizio D'Arcangelo con la nostra Raffaella Calandra. Raffaella, buonasera. Sì, Sebastiano, buonasera. Allora, le richieste. Un anno dopo, dunque, quegli arresti che tu ricordavi, il giudice ha stabilito il rinvio a giudizio per Massimo Faenza e il suo più stretto collaboratore, secondo l'accusa, ossia Claudio Calza e altre quattro persone, mentre ci sono anche le prime condanne per questa inchiesta, sono quattro condanne, due per patteggiamento e due invece per rito abbreviato. Arrivano alla nuova banca di Mazzega anche subito 22 milioni come risarcimento che sono stati stabiliti come provvisionale ai due che sono stati condannati, che sono Trogu e Benfenati, con rito abbreviato. Salta invece l'ipotesi di patteggiamento per Calza, che aveva pur raggiunto con la procura un accordo per un anno e aveva messo a disposizione anche 3,5 milioni per il risarcimento, ma il giudice ha considerato non congrua questa pena, per cui anche Calza insieme a Faenza Pence e ad altri come Arbia, l'ex responsabile delle relazioni esterne, dal 10 giugno saranno a processo davanti alla sesta sezione penale del Tribunale di Milano. Quindi rinviati Faenza e appunto gli altri cinque, tra l'altro invece hanno patteggiato, come tu ricordavi, Francesco Trogu, ex dirigente dell'istituto, e Antonio Benfenanti, mediatore. E hanno ancora hanno patteggiato, sì, loro due in rito abbreviato. Un anno e sei mesi, giusto, con la sospensione condizionale. E poi anche Massimo Sarandrea, invece... E Roberto Fabbri hanno patteggiato entrambi a un anno e sei mesi. Mentre due anni e otto mesi per Trogu e Benfanti, hai ragione, scusami. Un anno e sei mesi Sarandrea e Fabbri, e hanno risarcito poco più di un milione a testa. E quindi, insomma, a questo punto si va al rinvio a giudizio. I capi di imputazione, per far capire a tutti, insomma, ne abbiamo già... abbiamo ricordato il motivo dell'arresto, ma alla fin fine il GUP ha rinviato a giudizio perché? Per l'appropriazione indebita, in sostanza, cioè sono accusati di aver diciamo messo in piedi una struttura parallela, di questo si parlò quando furono arrestati, dietro un giro di commissioni a loro volta organizzato, orchestrato dietro i contratti in derivati che venivano venduti da questi intermediari che prendevano delle commissioni che a loro volta poi rigiravano ai manager della banca. Beh, una bella parte di giro. Vedremo come andrà. Sì, stanno l'accusa. Vedremo come andrà poi da inizio giugno. Grazie a Raffaella Calandra. Adesso le informazioni per chi è in viaggio e poi ultimo tema di questa puntata, il federalismo fiscale. Questa sera verrà votato alla Camera il disegno di legge sul federalismo fiscale, dovrà tornare al Senato perché vi sono stati alcuni cambiamenti, ma poi al Senato passerà senza prevedibili ulteriori cambiamenti. Di nuovo in diretta, dunque, in attesa del voto finale alla Camera, parliamo di federalismo fiscale. Intanto ringrazio il direttore del Centro di Ricerca Indipendente CERM, professor Fabio Pammolli. Buonasera. Buonasera, grazie a voi. Militanti padani davanti alla Camera in attesa del via libera al disegno di legge della riforma del fisco in senso federale, è intervistato dal nostro Vincenzo Miglietta a margine dei lavori. Il presidente dei deputati della Lega, Roberto Cota, ha sottolineato che la riforma porterà a un migliore rapporto, e anche nuovo, tra Stato e cittadini. Il federalismo fiscale non è né qualcosa di destra o di sinistra, ma qualcosa che oggettivamente è necessario oggi nell'interesse della gente, nell'interesse del mondo delle imprese, nell'interesse degli amministratori locali. Lo Stato per tanti anni è apparso come nemico rispetto al cittadino, rispetto alla gente. Il federalismo lo avvicina indubbiamente. Si asterrà, come annunciato in aula, il Partito Democratico, lo ha deciso l'Assemblea del Gruppo, la proposta è passata con 11 voti contrari. E allora, le ragioni dell'astensione, dalla voce del Presidente dei Deputati del PD, Antonello Soro, sempre intervistato dal nostro Vincenzo Miglietta. L'80% delle modifiche alla proposta di legge governativa ha il timbro del Partito Democratico. Fondamentali sono il sistema di perequazione affidato allo Stato e non attraverso un trasferimento di risorse da quelle più ricche alle regioni più povere. Un'IRPEF centralizzata come vuole la nostra Costituzione e non divisa una regione per regioni, secondo la prospettiva di favorire magari in Italia un turismo fiscale con la residenza nelle regioni più vantaggiose. Poi ancora un processo di riequilibrio dei servizi, costi unitari, un obiettivo di trasferimento delle risorse che abbia l'ambizione di dare a tutti i cittadini italiani gli stessi servizi, la stessa qualità, con costi unitari. Allora, professor Pammolli, prima di avere il suo commento, visto che alcuni ce lo chiedono, ricordiamo anche che cosa, sì, qualche emendamento è stato introdotto, ma insomma qual è la struttura portante, lo scheletro di questa riforma del fisco in senso federale, il fondo perequativo, ma anche i tempi, la nostra scheda. Un Una volta completato con le disposizioni attuative il disegno di legge che esce oggi dal Parlamento, le regioni italiane si faranno direttamente carico di sanità, servizi sociali e istruzione, finanziandole autonomamente. Già oggi sanità e servizi sociali competono alle regioni, che le finanziano in parte con risorse proprie e in parte con trasferimenti statali. La riforma federale aggiunge l'istruzione e soprattutto disegna un sistema in cui i fondi arriveranno integralmente da tasse locali o dal cosiddetto fondo perequativo. Al di là delle modalità ancora da definire, è infatti certo che le regioni avranno una maggiore autonomia finanziaria, mantenendo una parte di IRAP, IRPEF ed IVA raccolte sul loro territorio. Il punto più delicato riguarda le forti differenze di ricchezza che esistono tra le regioni italiane, in particolare tra nord e sud del paese. Basti pensare che un cittadino lombardo versa in tasse 4.000 euro in più di quanto riceve poi sotto forma di servizi. Ogni anno paga infatti in media 17.000 euro di tasse e riceve servizi per un valore di 13.000 euro. All'opposto, un cittadino siciliano ottiene 2.648 euro in più di quanto versa. Il prelievo fiscale medio si ferma infatti a 7.982 euro, mentre la spesa pro capite in servizi è pari a 10.630 euro. Fino ad oggi queste differenze sono state compensate dai trasferimenti statali. Con la riforma federale, la compensazione avverrà invece attraverso il fondo perequativo, finanziato con i soldi dello Stato e che, secondo alcune simulazioni, dovrebbe disporre di una dote di circa 25 miliardi di euro l'anno. Le regioni non potranno però attingervi a loro piacimento. Per ogni tipo di servizio verrà infatti identificata una spesa standard, calcolata prendendo a riferimento le regioni più efficienti. Il fondo perequativo garantirà alla regione che non ce la fa da sola, con i suoi tributi, la somma mancante per raggiungere questo livello standard di spesa. Il contributo del fondo non andrà però oltre quel limite e la regione che supererà l'asticella dovrà a quel punto finanziarsi autonomamente. Secondo una simulazione del Sole 24 Ore, l'applicazione di questo metodo dovrebbe tradursi in una cura dimagrante di circa il 15%. La spesa complessiva delle regioni per istruzione, sanità e servizi sociali dovrebbe infatti scendere da 113 a 96 miliardi di euro l'anno. E quindi alla fine 17 miliardi di euro in meno. Allora, fermo restando che tra due anni, se tutto va bene, arriveranno i decreti attuativi e quindi per l'entrata a regime bisognerà attendere almeno fino al 2016 al massimo, cioè 7 anni, perché l'entrata prima di 5 anni non avverrà, ma entro un massimo di 7 anni. Tra l'altro c'è un periodo di transizione. Professor Pammolli, due domande. Che cosa le piace di questa riforma, ma soprattutto com'è possibile, fermo restando che ci sono molti sprechi, abbiamo parlato molte volte di quanto costa il plasma al sud, quanto costa l'attacco in certe ASL siciliane, calabresi, ma com'è possibile che ci sia un risparmio, cioè che più soldi restino al nord senza che meno soldi vadano al sud? Mi rendo conto che la domanda è un po' semplice. Cosa mi piace è l'impianto complessivo, tra l'altro. Considero positivo alla fine che il Parlamento, nonostante divisioni politiche in un momento molto particolare, comunque arrivi con un processo che è un processo che segna l'importanza di questa riforma per il Paese e anche con un testo che è stato sottoposto a revisioni protratte nel tempo e che quindi ha avuto modo di beneficiare di varie osservazioni di tecnici e di politici. È una riforma, credo, epocale, e questa è una fase molto particolare che stiamo vivendo. Se ci trovassimo in condizioni di normalità sugli andamenti economici, probabilmente questo sarebbe il tema di dibattito, perché si tratta di una riforma istituzionale di significato storico. Noi abbiamo un unicum in Italia, un paese che non è caratterizzato da divisioni etniche, religiose, linguistiche, ma è caratterizzato da un divario di crescita economica e di ricchezza prodotta che è stabile nel tempo e che è rimasto su livelli, diciamo, inaccettabili tra nord e sud per oltre 150 anni. E questo è il punto sul quale si interviene, un divario di ricchezza e di crescita economica che si è accompagnato a una finanza derivata che ha lasciato ampie sacche di inefficienza all'interno della macchina della pubblica amministrazione. Sì. Questo è l'intento, ovviamente. Piace il fatto che sia stato disegnato un impianto anche di tipo macrofinanziario che riconosce alle regioni un ruolo centrale nei rapporti con lo Stato, che parla finalmente di enti sottesi alle regioni, di bilanci consolidati, quindi di razionalizzazione e di armonizzazione anche nelle procedure contabili, nei rapporti tra centro e periferia. Oggi consideriamo che è pressoché impossibile comparare due bilanci di due diverse regioni. E quindi c'è un progresso. No, questo l'ho capito, professore, però una cosa, una domanda non è speciosa, nel senso che è interessante il principio, più volte abbiamo detto, del costo standard, cioè non si capisce perché la sacca di plasma debba costare 1 in Piemonte e 6 in alcune regioni del sud. Siamo d'accordo, e lo Stato interviene con un fondo perequativo solo a colmare la differenza, se tu non ce la fai, però sul costo medio standard. E va bene. Quello che vorrei capire, resteranno più soldi, diciamo, nei contribuenti del nord, visto che la scheda ricordava la differenza tra quanto uno versa e quanto uno riceve, senza che vengano penalizzati i contribuenti del sud, solo grazie ai risparmi e alla maggiore efficienza, sì o no, secondo lei? Guardi, questo ritengo che l'ampiezza del divario sia tale da richiedere un periodo di aggiustamento. Infatti non è solo la componente, diciamo, di regola, che c'è anche una componente di aggiustamento nel tempo che deve far convergere verso livelli di efficienza elevati. È chiaro che i guadagni di efficienza che sono possibili a parità di servizio nella sanità in alcune regioni del Mezzogiorno lasciano pensare che un margine significativo di guadagni di efficienza ci sia. C'è un altro aspetto però, perché adesso stiamo guardando il lato della spesa, c'è purtroppo anche il lato di difficoltà nella produzione di gettito, che è legato alla crescita economica. Noi ereditiamo un divario di crescita economica molto forte tra Mezzogiorno e il resto del paese, e questo è un elemento che sicuramente dovrà essere corretto, altrimenti la risposta alla sua domanda sarà no. Quindi non è solamente sul lato dell'efficientamento della spesa. No, certo. Però dico, il fondo perequativo si preoccupa di dare alle regioni che hanno meno gettito fiscale, perché meno ricche, i soldi che mancano per arrivare a quel livello standard. Staremo a vedere, visto che ce lo chiedete, cito nel concludere il programma il caso della ASL di Reggio Calabria, commissariata dopo le infiltrazioni mafiose e ora retta da un generale dei carabinieri, infiltrazione dell'Andrangheta. I costi dei servizi si sono ridotti con cali oltre il 50%, l'abbiamo già ricordato, con 500 milioni di euro di debiti la ASL pagava un pacco di cerotti da 20 euro, lo pagava 3.500 euro, avete capito bene, per servivano 6 nuovi camici, ne ordinò 2.800. A Palermo, da quando c'è l'amministratore giudiziario, il costo medio di un attacco è sceso da 128.000 euro a 9.000 euro e non penso che l'attacco sia cambiata. Il ciclo di terapia per un tumore alla prostata è sceso da 136.000 euro a 8.000 euro. E ho detto tutto, come diceva una volta Totò. Grazie anche al professor Pammolli. Da Sebastiano Barisoni le auguro di buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.